Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio. A volte è complicato parlare di viaggi per ragioni legate al momento storico di un paese, per limitazioni dovute alla diffusione di malattie. Ma a noi piace volare con la fantasia e con l'immaginazione e dare anche qualche indicazione utile. Questa settimana ce ne andiamo in Cile, paese che racchiude tanti scenari diversi. Poi in Sicilia, a Gangi, per raccontarvi uno dei borghi più belli d'Italia e soprattutto com'è andata l'iniziativa delle case a un euro. In chiusura, qualche consiglio utile per chi aveva messo in programma un viaggio in Cina. Cile è una lunga striscia di terra che si affaccia sul Pacifico, un paese in cui il deserto del nord può riuscire a rubare la scena alle Ande, che però restano regine incontrastate, dove la natura del sud può rapirti, dove i terremoti sono una costante e dove la storia ha lasciato un segno indelebile. Non sono facili i mesi che stanno vivendo i cileni, le contestazioni verso il governo si ripetono e la repressione in alcuni casi è stata molto dura. Sono anche le contraddizioni a rendere speciale questo paese. Felipe Repetto è il responsabile dell'ufficio commerciale del Cile in Italia. Io direi due parole, natura e avventura, perché è un posto e un paese lunghissimo che offre una natura molto diversa dal nord al sud fino all'Antartica. È avventura perché questa natura è ancora pristina, è ancora in tanti posti non inquinata e quindi vuol dire che offre tantissime opportunità per andarla a scoprire. C'è tantissimo da scoprire, ci sono tantissime rotte ancora da aprire, tantissimi posti da scoprire, molto di più di quello che si vede nell'internet, di quello che si trova, di quello che si parla. Dicevamo anche parlando tra di noi di Santiago. Santiago è una città che per certi versi è molto europea e quindi magari per il turista europeo che arriva si sente quasi a casa ed è però anche molto diversa dal resto del paese. Santiago è sicuramente una tappa in cui ogni persona che visita il Cile dovrebbe fare uno o due giorni, perché c'è tutto quello che si chiama il casco storico, quindi il centro, che ha diversi quartieri, il quartiere Italia, il quartiere Conceitoro, il quartiere Yungay, dove la Star è un altro, dove ancora si vede un po' sia dal lato dal punto delle costruzioni, da un po' la vita che si crea di quartiere. C'è questo aspetto, diciamo, europeo. Poi dall'altro ovviamente è la grande città, quindi è una città caotica, è una città dove c'è tutta una grande offerta culturale, è una città che ha una ventina di musei, quindi dal museo della natura al museo delle cose preistoriche, al museo della posta, tante cose. Poi allo stesso tempo Santiago è una città che è a un'ora della montagna, quindi se ti piace sciare sei lì. È un'ora di alcuni agriturismi dove puoi andare a fare il wine route, quindi puoi fare turismo anche in questo ambito. Quindi è una città che in qualche modo ha tutto. Ha tutto, direi, tranne ovviamente il mare, a tutto tranne la natura che trovi al sud, a tutto tranne che il deserto che trovi al nord. Quindi da come città ovviamente la più grande, la metà della popolazione abita lì, offre tutto, è un centro anche finanziario, è la città dove le aziende di solito mettono i headquarters, e quindi è diversa sì dal resto. Io direi che è una tappa da sempre fare. Diciamo che Santiago è il punto di arrivo e poi da lì si sposta. Allora, tu giustamente citavi il deserto al nord, il mare al sud, Addentriamoci un po', magari partendo dal nord. Da Santiago prendiamo un volo o magari un autobus e ci spostiamo a nord nel deserto, che è uno scenario incredibile. Io quando sono stata lì sono rimasta affascinata. E bisogna dire che il deserto inizia più o meno a 4 ore in macchina al nord da Santiago, però è molto molto lungo. Quindi si può andare in autobus, gli autobus funzionano molto bene in Cile, perché purtroppo non ci sono i treni che arrivano a tutte le città, oppure si può prendere un volo. Ci sono tanti voli che collegano quasi tutte le città con Santiago, e adesso con i voli low cost si collegano anche tra città senza fare Santiago. Il deserto è un posto magico perché pensate che è il posto da dove si può guardare meglio l'universo, il cielo al mondo. Quindi stiamo parlando di posti a 3.000-4.000 metri d'altezza, con cieli con proprio zero inquinamento luminico, però è anche un posto dove c'è tanta vita. Nel deserto ogni 2-3 anni capita di avere il deserto pieno di fiori perché c'è una pioggia, o capita anche, si possono anche trovare dei pinguini, perché la corrente di Humboldt che va dall'Antartica in su porta queste acque fredde che permettono di trovare pinguini nel deserto. Poi c'è anche tante culture antiche che hanno abitato il deserto, quindi c'è anche quell'aspetto che è molto importante. Direi che il posto più conosciuto nel deserto è senz'altro San Pedro d'Atacama, che è un oasi dal quale si possono andare a vedere i geyser, si possono andare a vedere posti come il Valle della Luna, laghi di sale, si trovano dei fenicotteri nel deserto, posti veramente incredibili. Lasciamo il deserto nord e invece andiamo a sud, al mare. Anche qui un mare tutto particolare. Il mare in Cile purtroppo è sempre freddo, è un mare spettacolare che ci offre tanta vita, tanti pesci, tanta varietà di cibo. È un mare che anche per a chi piace navigare è molto anche interessante. È un mare che quando la cordigliera si sommerge diventano tante isole, quindi tanti canali, e c'è tutta una vita che offre da scoprire in mezzo alla natura proprio intoccata. Mare, deserto, sicuramente sono in Cile dei paesaggi che lasciano a bocca aperta. Devo dire la verità che quello che veramente mi ha lasciato senza fiato in Cile è stato vedere le Ande, perché sono un qualcosa che secondo me forse a parole non è neanche descrivibile. Ma le Ande le vedi già quando arrivi a Santiago, sono veramente gigantesche, e le Ande sono anche allo stesso tempo quello che ci unisce tutte le culture, i popoli del Sud America, perché sono quella colonna vertebrale che ci fa condividere tante tradizioni. Però le Ande sono allo stesso tempo, quindi, altopiano, vulcani, montagne, neve, e come dicevo prima diventano anche isole quando si va al sud. Dicevi poco fa che questo è un periodo molto favorevole per esempio proprio per chi ama la montagna e ama la neve. Ma in realtà questo è un periodo soprattutto per scoprire, direi, la Patagonia, perché la Patagonia, ricordate che in Cile, il Cile è nell'emisferio sud, quindi le stagioni sono al contrario, quindi direi da dicembre fino a marzo si può soprattutto andare a scoprire la Patagonia, che altrimenti d'inverno è troppo difficile andare. secondo te, visto che abbiamo cercato di fare un po' una panoramica di tutti quelli che sono gli scenari possibili, ci sono secondo te dei posti veramente ancora poco conosciuti che vale la pena di andare a vedere, ovviamente nel caso in cui si abbia il tempo sufficiente per farlo? Assolutamente, come dicevo all'inizio, il Cile è un paese che ha ancora tantissimi posti da scoprire. L'impegno ovviamente dell'agenzia di Sernatur è di promuovere questi posti, e ci sono anche tanti strumenti, tante guide per andarle a conoscere, ad esplorare, con i percorsi, tutto segnalato. Ma io in realtà pensavo a due posti che secondo me non sono ancora molto conosciuti. Il primo è l'arcipelago Juan Fernandez, che sono tre isole che sono meno conosciute che l'isola di Pasqua, in cui c'è una natura endemica incredibile, si può fare anche scuba, si può fare trekking, e ancora è un posto a cui solo alcune persone hanno, forse perché hanno il tempo, forse perché hanno l'opportunità di conoscere. Un altro posto, direi, anche se si va sud è Puerto Williams, è il paese che è di fronte a Ushuaia in Argentina, Puerto Williams dall'altro lato del Canal Beagle in Cile, dal quale si possono iniziare alcuni trekking che sono, secondo me, ma sono senz'altro molto meno frequentati che quelli ad esempio della Patagonia e il parco Torres del Paine. Quindi da Puerto Williams si possono fare Dientes de Navarino, che è un altro parco molto bello al sud, per chi piace la natura estrema. Secondo me è ancora un posto molto poco conosciuto. E invece torniamo sui sentieri più battuti. Secondo te il giro classico, che però tiene in sé delle tappe imprescindibili, visto che siamo aiutati anche ormai dalle low cost, dagli autobus che, come dicevi, collegano benissimo il paese da nord a sud, qual è secondo te il giro che bisogna fare per conoscere il paese? Secondo me il nord, il deserto, è una tappa assolutamente imperdibile, perché è un qualcosa che è diverso e che non esiste proprio in Italia. Non è il deserto del Nord Africa, è un deserto molto diverso e va conosciuto, va visitato, si può fare tranquillamente in 4 giorni, da 4 ovviamente in su. Poi a chi piace invece il verde, io consiglierei sempre il parco Torres del Paine, che è un parco che offre dei percorsi da 2 giorni fino a 10 giorni, chi vuol fare di più ovviamente può restare di più, nel quale uno si trova in mezzo alla natura, assolutamente offline, non c'è campo del cellulare. E c'è anche una comunità internazionale molto interessante che va a fare questo parco, ovviamente insieme ai cileni. Ci fermiamo per qualche istante, restate con noi. Globetrotter 24. A 1 euro, una iniziativa che in Italia si è ripetuta da nord a sud per combattere lo spopolamento dei comuni montani, per esempio, per dare nuova luce a borghi sottovalutati. Se ne sono accorti anche gli americani, che qualche settimana fa hanno mandato le telecamere della CNN a Bisaccia, comune della Campania, che propone case a 1 euro. Noi siamo andati a Gangi, borgo siciliano che ha cominciato qualche anno fa, per capire se poi il prezzo simbolico ha davvero cambiato la vita del paese. L'assessore ai lavori pubblici di Gangi, Giandomenico Lopizzo. Questa è un'iniziativa che è stata realizzata negli anni precedenti, che le amministrazioni che si sono succedute hanno portato avanti, perché è stata una bella iniziativa che ha dato lustro al paese, ma nello stesso tempo ha consentito anche di riqualificare alcune zone del nostro territorio. L'idea è quella di che il comune si fa da intermediario tra i cittadini che vogliono disfarsi delle proprie abitazioni, che non sono in condizioni diciamo strutturali ma anche estetiche brillanti, quindi vogliono disfarsene, e il turista piuttosto che la persona che vuole vivere qualche periodo della propria vita in Sicilia e che vuole acquistare, più che acquistare, che vuole è regalata una casa nel nostro paese. Si fa da intermediario, si creano degli elenchi, questi elenchi possono essere visualizzati da chiunque, si può scegliere la casa che più piace, e l'unico obbligo è quello di realizzare un intervento di ristrutturazione su queste case. Diciamo che l'iniziativa è stata importante soprattutto per un motivo, perché ha consentito anche di rilanciare un po' il mercato delle case nel nostro paese, perché chi è che si è recato a Gangi per visionare le case a un euro poi si è innamorato del paese e magari anziché acquistare la casa a un euro, quindi a un prezzo simbolico, ha acquistato delle case in buone condizioni ma che diciamo hanno un prezzo piuttosto basso rispetto al resto del mondo, perché il mercato immobiliare impone questo tipo di prezzi. Quindi con magari 15-20 mila euro si riesce a comprare una casa di 50-60 metri quadri anche ristrutturata. Quindi questo è stato importante per la nostra economia e per l'economia diciamo di tutti i gangitani. Ricordiamo anche, assessore, che Gangi è uno dei borghi più belli d'Italia, per cui è in una lista già di per sé importante. Certo, assolutamente. Nel 2014 il comune è stato eletto borgo dei borghi, Gangi nel circuito dei borghi più belli d'Italia, e tra i borghi più belli d'Italia è stato eletto il borgo più bello, ed è indubbio che il risalto che questo tipo di notizie, ma anche di riconoscimento che è stato attribuito al nostro comune ha sortito in tutto il mondo. Diciamo che questa cosa è stato un po' il volano che poi ha consentito di prendere piede anche l'iniziativa delle case a un euro, perché da lì a qualche tempo poi i cittadini di tutto il mondo hanno acquistato case a Gangi. Ci sono cittadini non solo italiani ma veramente di tutto il mondo, dall'Europa, dall'America, che hanno acquistato casa a Gangi. Quindi diciamo che è stata un'iniziativa sicuramente importante per il nostro comune, ma anche per tutto il territorio vicignore, perché anche i comuni vicini hanno come dire, beneficiato di questa iniziativa, tant'è che poi da qualche anno anche un comune vicino a noi, che è il comune di Pacialia Soprana, è stato insignito dello stesso titolo. I'm not romantic, don't be dramatic, 'cause I'm not romantic. Assessore, mi racconti però un po' anche del borgo, perché avete veramente una posizione invidiabile. Voi state tra il Parco delle Madonie e il Parco dei Nebrodi, a pochissimi chilometri c'è il mare perché sulla costa poi c'è Cefalù, quindi è una posizione veramente invidiabile. Abbiamo una posizione strategica in Sicilia, siamo in un'area interna però abbiamo una posizione strategica, a circa 20 minuti abbiamo un collegamento autostradale. Diciamo che, come diceva lei, siamo nel territorio delle Madonie, però siamo proprio al confine con il territorio dei Nebrodi, siamo al confine con la provincia di Enna, con la provincia di Messina, quindi diciamo che siamo sicuramente un crocevia e infatti abbiamo una tradizione storica millenaria proprio perché nei secoli abbiamo rappresentato un crocevia e quindi il bello della nostra cittadina è che questa storia ancora oggi la sperimentiamo. Noi abbiamo un comune in cui ci sono 20 chiese con tantissime opere d'arte, sia scultore che dipinti, che diciamo che siamo ricchissimi di arte, ma anche siamo ricchissimi di forme architettoniche che negli anni sono state sperimentate che si sono sovrapposte durante le varie dominazioni, quindi abbiamo presenze arabo-normanne, abbiamo diversi siti archeologici che testimoniano proprio il fatto che Gange è stato il crocevia, uno dei crocevia del territorio siciliano durante la storia. E quindi diciamo che se visitate il nostro sito vi accorgerete che proprio la presenza storica emerge da quelli che sono gli elementi e le evidenze culturali e architettoniche del nostro paese. In queste settimane di allerta per la diffusione del coronavirus cinese vogliamo solo dare qualche indicazione, qualche consiglio che speriamo possa tornarvi utile. Ad esempio per chi aveva già acquistato un pacchetto per un viaggio in Cina e ci facciamo aiutare da Ivana Jelinic, presidente della Federazione Italiana Agenzie di Viaggio. Se si decide di non partire, in questo momento ci sono due alternative possibili. Come previsto anche dalle norme vigenti in materia, trattandosi di questo come di una situazione, come dire, di carattere imprevedibile e di causa maggiore. Allora, le soluzioni sono due: o la possibilità di cambiare destinazione, quindi scegliere un'altra meta, un'altra località dove comunque poter fare un viaggio, o in alternativa richiedere il rimborso di quanto già pagato. Per chi invece si trova già lì perché è partito con appunto un viaggio organizzato? Allora, per i clienti che si trovano attualmente già in Cina, chiaramente la prima cosa che devono fare è devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità locali e quindi seguire le istruzioni in maniera assolutamente fedele senza prendere alcun genere di iniziativa di carattere personale. Tenere i stretti contatti chiaramente con il proprio agente di viaggio, la propria agenzia di viaggi in Italia, per avere un monitoraggio della situazione e poter essere costantemente assistiti. Dottoressa Jelinic, lei in questo momento si sentirebbe di dare consigli proprio pratici o concreti a chi deve viaggiare? Allora, sicuramente per chi si mette in viaggio in questo momento la prima raccomandazione è se viaggiate per piacere, chiaramente fatelo, soprattutto se siete in buone condizioni di salute. Fare attenzione chiaramente alle norme igienico-sanitarie basilari, quindi evitate di bere acqua che non sia rigorosamente in bottigliette sigillate, portate disinfettanti per le mani, lavate le mani accuratamente, evitate per quanto è possibile i grandi luoghi di affollamento, evitare sempre, questa è una buona norma, di consumare cibi crudi e avere con sé medicinali di largo consumo per le immediate necessità. Prima di salutarci vogliamo segnalarvi una mostra appena inaugurata a Basilea. Fino al 17 maggio alla Fondazione Beyeler in esposizione le opere di Edward Hopper. Il percorso affianca i paesaggi a olio a una selezione di acquarelli e disegni. È la prima volta che le opere di Hopper vengono esposte nella Svizzera tedesca. E per questa domenica ci fermiamo qui. Se volete scriverci globetrotter@radio24.it. Un ringraziamento in regia ad Andrea Roccabella. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.